Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 24. Dust and Bones. Diossido guidava per le colline come faceva sempre quando si annoiava o doveva riflettere. Il paesaggio al tramonto, con il sole basso e rosso, lo distraeva dalla noia. Era l'ultimo uomo al mondo, come nei film di fantascienza che gli piacevano tanto da bambino. L'ultimo essere pensante in un mondo di decerebrati. La cosa lo irritava. Era disgustato dalla sua impotenza, soprattutto temeva di dover riconoscere che in fondo Drago aveva vinto. Ovunque era andato aveva trovato solo gente sorridente, persino felice. Quando camminava ombroso per le strade, chi lo vedeva gli sorrideva, gli ammiccava con una smorfia per rallegrarlo, e naturalmente la cosa non faceva che indispettirlo ancora di più. Spesso, quando era di umore più cupo del solito, rispondeva ai saluti sputando addosso ai malcapitati. Ma questi non se ne davano pena e anzi iniziavano a ridere e a sputarsi fra di loro, provocando infine un diluvio di saliva. Diossido, umido e umiliato, aveva più volte abbandonato il campo fra le risate degli altri che si divertivano deliziati da quel nuovo gioco. Ultimamente il suo aspetto era peggiorato, aveva iniziato a trascurarsi. Ormai erano un paio di mesi che non si tagliava la barba. Quando parlava da solo, cosa che succedeva sempre più spesso, era più per capire se era ancora in grado di articolare qualche parola che per esprimere davvero qualcosa. Vagava senza meta per la maggior parte del tempo. A volte si fermava sulla collina a guardare da lontano i lavori che procedevano senza sosta, giorno e notte. A volte si addormentava seduto sul terreno con la schiena appoggiata a un albero. Quando si svegliava di soprassalto, non riusciva mai a ricordare i suoi incubi e inciampava frenetico fra i cespugli nella notte fino a trovare rifugio in macchina per ascoltare un po' di musica che lo aiutasse a non pensare troppo. A casa sua gli scorpioni erano usciti dal terrario e avevano trovato più favorevole dimora negli interstizi dei mobili in cucina. Erano floridi e felici. Spesso facevano insieme lo spuntino di mezzanotte quando, tornato a casa, li trovava intenti a frugare tra le provviste e le immondizie. Meglio così, pensava. Anche loro hanno diritto alla loro libertà. Quel giorno, mentre guidava, la palla rossa del sole all'orizzonte gli era sembrata per un attimo il pallone da basket che il Marra proiettava contro il muro del campetto con cocciuta ostinazione da pennuto. Era rimasto ad osservarlo nascosto in disparte tutto il pomeriggio. Il Marra non aveva fatto altro che stare tutto il tempo in piedi sotto il sole e tirare ripetutamente la palla contro il muro senza muoversi di un solo centimetro dalla sua posizione. Si era andato lentamente ricoprendo di sudore fino a che parve emergere dall'involucro sciolto la sua vera forma di volatile, un vecchio condor forse o un avvoltoio calvo. Mentre Diossido lo osservava al riparo di alcune piante, si chiedeva chi fosse più pazzo, il pazzo o chi lo sta a guardare. Gli era salita una gran malinconia senza che gli venisse in mente un possibile rimedio e aveva preso la macchina ansioso di vedere il mondo scorrere dai finestrini come in un film. Quando se n'era andato, il Marra era ancora lì e non si sarebbe stupito affatto se l'avesse trovato lì anche l'indomani. Ora teneva mollemente le mani sul volante, mentre le morbide onde d'erba adagiate come una coperta a scacchi sulle pendici della collina gli riempivano lentamente l'animo di una ignota calma. Aveva voglia della compagnia dei suoi simili, ma di suoi simili ormai non c'erano che quei due. Aveva quasi voglia di arrendersi alla sconfitta e, cosa alquanto insolita, quasi gli andava di ascoltare un blues. Una grigia e discreta auto giapponese fece il suo ingresso in città all'imbrunire. Dai finestrini semiaperti uscivano attutite le prime battute della nona di Beethoven. La nona sinfonia di quel sordo bastardo era stata la colonna sonora di molti dei momenti d'oro della Resi. Ora aveva un tono dissonante. La colonna sonora e gli attori erano gli stessi, ma la trama del film aveva virato verso l'imprevisto. «Allora ci parlo io prima?» domandò Mirko. «Non mi piace nascondermi», sbuffò il meticoloso. «Sono sicuro che se ti vede così all'improvviso ti salta addosso». «Peggio per lui». «Ma sono io che non voglio. Che cazzo vi è preso a tutti e due?» Mirko non ebbe risposta. Il Ludovico Van li accompagnò fino a destinazione, fra archi, timpani e tromboni. La casa era buia e silenziosa, la strada deserta. «Non vedo la macchina, le finestre sono chiuse. Aspettiamo?» «Andiamo su a vedere, da tanto che non ci torno qui». A Drago sembrò per un attimo di ricadere nel passato. Il linoleum verde vomito delle scale lo salutò come un vecchio amico. Entrarono nell'appartamento dopo aver bussato senza ricevere risposta. La porta era aperta. Non c'erano più ladri, che bisogno c'era di chiavi. I bulbi oculari che Diossido teneva sugli scaffali dell'ingresso li guatarono entrare al buio e non batterono ciglio quando Mirko accese la luce. Non molto era cambiato nella casa, anzi, a ben guardare era tutto in ordine e nulla era mutato. Tuttavia, ogni cosa aveva acquisito la patina opaca del disinteresse più totale. I colori delle cose erano virati al grigio a causa della polvere che ricopriva tutto come neve grigia e asciutta. Perfino il busto di Beethoven aveva dovuto soccombere all'assalto del pulviscolo. Questo, più di ogni altra cosa, dava la misura dello stato di abbandono di quel luogo e della mente di Diossido. Nella camera di Diossido solo lo stereo e il letto erano perfettamente puliti, neanche un granello di sporco. Non un'impronta digitale sulle cromati parti metalliche. Drago aprì il cassetto del lettore CD. «Klaus Schulz, da quanto tempo?» disse accendendo l'impianto stereo. Le prime eteree note di Black Dance strisciarono fuori dalle casse come se fossero fatte di nebbia. La polvere vibrava lieve sugli altoparlanti. «Guarda qui!» Mirko era tornato dalla cucina tenendo in mano una fetta di pane tostato con sopra uno scorpione che esplorava agitato il perimetro dell'improvvisato tappeto volante. «Pane? Hanno cambiato dieta?» «No, sono tutti in cucina. Credo che stiano cacciando scarafaggi». «A meno che non sia Camillo ad avere cambiato dieta», sogghignò Drago. Aprirono il frigo, sperando di trovare qualcosa di fresco da bere, ma la cosa più fresca che c'era lì dentro era la vaschetta, vuota, delle uova. Un cartone di latte già aperto aveva stampata la data di parecchi mesi prima, all'incirca il periodo del terzo avvento. Non c'era altro. «Forse stiamo perdendo tempo qui. Forse non torna più a casa. Polvere alla polvere». Ozelot sembrava deluso. Nella musica ora si era insinuato, scivolando piano, il ritmo delle percussioni. Le stanze vuote pulsavano di vibrazioni. Si sedettero sull'esiguo spazio pulito nel deserto lunare di polvere ad ascoltare la musica e a decidere il da farsi. Drago giocherellava con una sfera di vetro al cui interno si trovava una perfetta riproduzione di un occhio dall'iride azzurra. Non potevano sentire la macchina arrivare, né tantomeno i passi strascicati sulle scale. Loro non lo riconobbero subito. Lui invece sapeva chi fossero ancor prima di vederli. Appena udito la musica dalle scale, non aveva avuto dubbi. li aveva sbirciati dalla porta e, trovati assorti proprio al centro del suo spazio personale, era rimasto silenzioso, in piedi, appoggiato alla porta a osservarli. La canzone terminò. Il silenzio fra un brano e l'altro fu interrotto da un fruscio di abiti. Loro girarono insieme la testa verso la porta e videro un barbone con gli occhi spiritati che li stava fissando, serio. «Lo sapevo», disse indifferente il barbone. Poi si girò e andò verso la cucina senza aggiungere altro. Mirko lo seguì in tempo per vederlo aprire una piccola busta di plastica e depositarne il contenuto a terra. Riconobbe i porcellini di terra, i piccoli animaletti che si nascondono sotto le rocce e che un secolo prima usavano per rifornire il terrario di cibo sempre fresco. Anche Drago li raggiunse per la riunione di famiglia. La scena era incorniciata da un brano di musica elettronica che Klaus Schulze aveva costruito sui versi e la melodia di un'opera di Verdi. «A te l'estremo addio», intonava il tenore, mentre gli scorpioni si affrettavano sulle piastrelle bianche pregustando il pasto settimanale. Lo zampettio frenetico sembrava il ticchettio di un orologio impazzito. I tre stettero a lungo in silenzio osservando le bestiole banchettare. L'aria che cantava il tenore era scura e densa di risonanze elettriche. Poi Diossido, inaspettatamente, parlò con voce esitante. Da tempo non articolava tutte quelle parole insieme. «Se ti avessi visto ieri ti avrei spezzato il collo. Questa mattina magari ti avrei preso a calci, ma sono stanco. Tanto ormai è inutile. A questo punto...» Aveva ancora davanti agli occhi il Marra, che come un automa continuava a tirare la palla contro il cesto. Le immagini di Anna e Acqua di Cane e la chiesa del senza nome, il pescatore che si lasciava cadere in acqua, il muro spietato di facce sorridenti dovunque andasse, tutte le cose che lo avevano sconvolto negli ultimi tempi ora non erano che un fardello troppo grande perché potesse sostenerlo da solo. E per di più, senza alcuna possibilità di poter cambiare il corso degli eventi. «Mi arrendo. Cosa volete?» chiese. «Prima cosa? Spronzarci», rispose Drago. «Ma abbiamo visto che sei sprovvisto di liquidi», ridacchiò Mirko. Diossido fece una smorfia che poteva essere una risata o una violenta fitta intercostale. «Pub?» disse Drago avviandosi alla porta. «Pub, i capelli ce li hai tu? Sono in macchina con gli occhiali». Aspettarono sulla soglia Diossido che non si era ancora mosso. Stava guardando gli scorpioni baloccarsi con i loro spuntini. «Chissà se sono felici», mormorò fra i denti. Drago gli si avvicinò. «Abbiamo bisogno di te», gli disse calmo. «Loro no». Diossido lo fissò con uno sguardo fangoso. Dal fondo limaccioso le pupille cercavano di emergere come creature del sottosuolo. «Forse sono io che ho bisogno di loro. Forse hai più bisogno di una birra». «Io ho bisogno di una birra, ci muoviamo?» berciò Mirko uscendo dall'appartamento. «Vi aspetto giù, muovetevi!» e scese le scale. «Dai, puoi spezzarmi il collo se vuoi». Drago aveva un sorrisetto ironico. «O cenare con loro? O venire a fare due chiacchiere come si deve?» e si avviò a sua volta. Diossido si passò una mano tra i capelli, guardò gli scorpioni, la cucina fredda e la casa polverosa, rabbrividì, si scosse, andò a spegnere lo stereo e seguì le sue gambe uscire dalla porta. Gli avventori del pub gettarono una fugace occhiata quando due tizi con lunghe crespe capigliature nere, occhialini da sole e chiodo da rocker entrarono dalla porta di legno modello saloon, seguiti dalla brutta imitazione di un mistico barbuto e cencioso. nessuno diede segno di sentirsi alla presenza di qualche dio. Le conversazioni, le risate, i brindisi non diminuirono neanche per un istante. I sosia di Slash e di Joy Ramone si sedettero da una parte del tavolo, il mistico barbuto davanti a loro, e presto si mimetizzarono con la folla variopinta che riempiva il locale. Uno dei mille classici di Neil Young rendeva l'atmosfera allegra e pacata. Dallo schermo gigante posto su una parete del pub, un cartone animato mostrava il funzionamento della corrente elettrica nei differenti tipi di circuiti. Frecce rosse e verdi si muovevano veloci lungo il circuito, disegnando le traiettorie degli elettroni. Le didascalie in inglese spiegavano i processi subatomici alla base degli eventi illustrati. «Allora cosa vuoi? Cosa posso fare io per il Dio?» chiese Diossido dopo il primo sorso di rossa. Drago scostò i lunghi capelli neri dal viso, tracannò dal boccale la nera Guinness in un lungo appassionato sorso, ruttò educatamente a bocca chiusa, rise con se stesso e si rivolse da dietro gli occhialoni a Diossido. «Anche un dio ha bisogno di aiuto a volte. Non posso mica fare tutto io, cazzo!» Mirko, che si stava riempendo il secondo bicchiere con un'ambrata birra belga dei frati trappisti al doppio malto, tracce della schiuma sulle punte dei capelli e intorno alle labbra, l'interruppe lesto. «Dobbiamo organizzare gli aiuti dopo tutto il casino che c'è stato. C'è bisogno di creare un centro di coordinamento globale, capisci? Per aiutare la gente!» Beve ancora l'ottima birra e continuò. «Noi non possiamo esporci troppo, capisci? Guarda come ci tocca andare in giro!» «Poverini!» Diossido rise sardonico. «Che vitaccia!» Drago parlò con calma, ma il tono era rauco e inquieto. «Almeno noi ci proviamo, cazzo! Non stiamo lì a pensare a cosa fare!» Mirko l'interruppe nuovamente. «Sarà un mondo matto, ma non più matto di quello che c'era prima. Avresti dovuto esserci in quei posti, avresti dovuto vedere. Per favore, non ricominciamo con i vecchi discorsi del cazzo, ormai è fatta!» Osservò sconsolato la poca birra rimasta nella bottiglia e la finì in un sorso senza neanche farla passare dal bicchiere. «Fate i bravi voi due che torno subito!» Andò al bancone per un'altra bottiglia, anzi, magari due, tenendo con la coda dell'occhio costantemente sotto controllo il tavolo dei suoi amici. Diossido e Drago non parlavano, ma il linguaggio corporeo rivelava che il muro di rabbia che li aveva contrapposti non c'era più. Il passato sembrava sempre più remoto. I muscoli e le posture erano rilassati. Mirko tornò con tre bottiglie di Cimei, lucenti di frescura. Riempendosi il bicchiere, annunciò entusiasta. «Ho appena avuto un'idea. Ti ricordi quando abbiamo visto in piazza Anna e quella gente?» «I vostri devoti, sì, certo che ricordo lo spettacolo. In poche parole, saranno loro la base operativa. Tu dovrai solo, se ci stai, tenere insieme i pezzi e avere una visione più globale di dove e come intervenire. Sarai il Nick Fury della situazione!» E approvò il paragone con un lungo sorso di birra direttamente dalla bottiglia. «Io non capisco. Perché non lo fate voi? Anzi, perché lo fate?» «Perché non mi piace lasciare le cose a metà, ecco perché!» gracchiò Drago. «Non possiamo andarcene in giro come te, come prima. Ogni volta è un tormento!» «Io poi avrei meglio da fare!» disse Drago congiungendo le punte delle dita come un ragno che fa le flessioni su uno specchio. «In fondo si tratta di aiutare gente, tutto qui», mormorò Mirko strascicando le parole. «E aiutare te stesso a scacciare i tuoi demoni. Non fare il mistico con me, Ozelot. Sono solo pratico. Voglio andarmene in vacanza sapendo di aver fatto un buon lavoro e di non avere lasciato niente in sospeso». Tacquero. Diossido, gomiti appoggiati al tavolo e schiena curva, sorseggiava lentamente la sua rossa. Non era arrivato neanche a metà bicchiere. Drago si era mollemente appoggiato allo schienale, ambedue le mani sul tavolo disposte ai lati del suo boccale vuoto. Sebbene non si indovinasse la direzione del suo sguardo, sembrava che lo fissasse come se lo volesse spostare con la forza del pensiero. Mirko si dimenava sulla panca, incapace di decidere se finire le birre rimaste prima di alzarsi per prenderne un'altra o togliersi subito il pensiero. Nessuno aveva fatto caso ai tre personaggi quando erano entrati nel locale e nessuno ci faceva caso ora, mentre stavano accumulando una quantità sempre crescente di bottiglie colorate e bicchieri vuoti, anche se con il caldo, le numerose birre e l'umidità della folla, le facce sudate erano incollate di capelli, le parrucche facevano pizzicare la testa e i pesanti occhiali di plastica iniziavano a scivolare pericolosamente dal naso. «Allora, che ne pensi?» Drago riprese a parlare, continuando a fissare il boccale vuoto. «Sarà una cosa molto impegnativa, ma tu puoi farla funzionare.» «Ragazzi, devo andare al cesso, arrivo.» Mirko si alzò con cautela, rimase un attimo in piedi, indeciso, accanto al tavolo, poi finì la bottiglia di malto e luppolo e sparì in fretta dietro a un'alta pianta ornamentale. Drago rivolse lo sguardo verso Diossido, che stava grattandosi la barba ispida. Sembrava riflettere. Non conosceva la musica diffusa nel locale in quel momento. Doveva essere qualche nuovo gruppo uscito negli ultimi mesi. La canzone combinava numerosi campi di tempo con parti acustiche, elettroniche, improvvise virate verso il metal. Gli faceva venire voglia di suonare. Il testo della canzone parlava di occhi. «Quanti occhi ci vogliono per vedere? Gimme eyes!» ripeteva ossessionante il ritornello. Drago era preso dalla canzone, lì per lì non fece caso a quello che disse Diossido. Poi, come un eco, le parole gli rimbalzarono contro la scatola cranica e riaffiorarono alla coscienza. «Almeno avrò una buona scusa per tagliarmi questa cazzo di barba», aveva detto Diossido grattandosi il mento. «E poi davvero non è che mi avete lasciato molte alternative. Forse sono stato frettoloso, ma ormai è fatta, come dice il tuo socio.» Mirko si materializzò all'improvviso, sedendosi pesantemente e ruttando fra i capelli impigliati fra le labbra. «Lo hai evocato», disse Drago. «Andiamo? Tanto lui è già uno straccio. Non si è mai saputo limitare.» Si alzarono e, camminando ai fianchi di Mirko, lo scortarono fuori dal pub. L'aria fresca della sera gli fece bene, la città era quieta e invitante. «Dobbiamo raccontarti un mucchio di cose, ho voglia di camminare, andiamo al mare?» chiese Mirko, riscotendosi dalle nebbie di luppolo. Diossido fece un cenno affermativo, anche se Riviera, senza attendere risposta, aveva già iniziato a parlare e a raccontargli le vicende che le avevano visti i protagonisti negli ultimi mesi. Drago li seguiva silenzioso. Poco a poco Diossido iniziò a fare domande, a inserirsi nel discorso. Camminarono e parlarono per tutta la sera, poi camminarono di notte sulla sabbia umida. Si facevano piani, si decidevano cose. L'alba gli colse ancora sulla spiaggia azzurrina di luna.